Lovelace, Radio Wombat, purtroppo è finita questa, la sigla. Cioè, sempre la prima volta. Sì, ci dispiace sempre molto quando finisce, la ascolteremo all'infinito. 21:33 di lunedì 14 novembre con una grandissima voce. Sono tra di voi, però vabbè, si fa quel che si può. E, però fortunatamente non ci sono, non sono solo io, ci sono delle voci ben più prestanti della mia. Ciao. Ciao. Bene. E una puntata di Lovelace, quella di oggi, completamente, come dire, non completamente improvvisata, un po' improvvisata, non abbiamo neanche una scaletta, però insomma comunque... Vabbè, non creiamo aspettative nei precedenti, cioè non è che abbiamo mai fatto che è un gran lavoro, quindi insomma... Infatti se non dicevi niente, nessuno si accorgeva di niente. Cioè, No. In questi tempi si dice jazz, tipo live, cose del genere. La puntata no? Free. Sì, esatto. Freestyle. Sì, freestyle, ma abbiamo tante cose da raccontarvi e lo faremo in maniera free. E, dicevamo, Radio Wombat, vi ricordo velocemente i social Wombat, il sito radiowombat.net, la casella di posta, posta Wombat, @insiberia.net, alla quale scriverci. La messaggeria, messaggeriawombat.vado.li, dove potete lasciarci dei messaggi vocali che piacciono tanto a voi giovani e lo potete fare, capito, addirittura tramite l'internet, così, e tramite un ottimo finto sito. Benvenuto 1999, esatto. L'internet. Poi c'è il fax, no non è vero, il fax non ce l'abbiamo. Peccato. Sarebbe stiloso. Poi abbiamo però, invece questo è moderno, il... La telescrivente. No, abbiamo il pad della diretta, diretta@wombat.vado.li, e questa volta siamo in diretta, quindi potete scriverci, noi vi leggiamo, ma se voi non vi ricordate che siamo in diretta, vabbè, potete lasciarci comunque un messaggio e poi chissà, a un certo punto magari lo leggeremo lo stesso. Bene, ho adempiuto i miei compiti e sono già stanca, quindi... Hai già finito la voce? Sì, probabilmente è sì. È lunga la puntata. Probabilmente sì. No, va bene. Di cosa parliamo oggi? Parliamo del... Argomento del giorno. Esatto, quello che è sulla bocca di tutti, proprio non si parla d'altro. Il divorzio di Totti con Ilaria Blasi, proprio, esattamente. Ma quella è allora, la roba già vecchia. Roma, okay. 2020, scusate, no, non era quella. Ah no, sbagliato programma, prego, vada. Ma quella è vecchia, scusa. No, vabbè, noi oggi parliamo della sfiga sostanzialmente. No, dai, no. Da buoni avvoltoi e carogne non potevamo farci mancare una puntata sui licenziamenti del Big Tech. Esatto. Cioè sull'arretramento... dei titoli tecnologici e sulla ricaduta che ha avuto sui poveri disgraziati che contavano su quelle cose per pagare l'affitto, arrivare vabbè, a fine però, mese. Esatto, però allora spendiamo qualche lacrima da coccodrillo adesso, in modo sì, che poi dopo possiamo cazzo, continuare a gioire. Esatto, sì. Sì. Cioè, facciamo quindi adesso un po' di voci contrite. No, comunque ci dispiace, perché comunque poracci pure loro, cioè magari avevano la famiglia. No, comunque hanno perso anche aziende che non sono persone necessariamente cattive. No, questo infatti. Diciamo che c'è una, diciamo, esatto, in una scala personale ma probabilmente condivisibile, sì appunto ci sono diverse creature di merda e ci sono... che arrivano a un'accettabilità fino a proprio. Peraltro, probabilmente quelli che hanno perso il lavoro, a parte il team di etico per l'intelligenza artificiale, sì, di quelli sinceramente di Twitter, che obiettivamente cioè, già sei fortunato, capito, che finora hai fatto un lavoro che palesemente non serviva un cazzo e ti davano lo stipendio a tutti i mesi, no? E quindi già no, dai, però dovevi aspetta. Sapere che uno poi sarebbe finita, però in realtà in questa grossa rete probabilmente ci finiscono. Però sì, aspetta, scusa, proviamo un attimo a contestualizzare, cioè comunque sia tutta questa serie di licenziamenti nasce di recente con cosa? Con quel che è successo? Cioè, con, cioè un c'è bellissimo stato... grafico riportato anche da Sole 24 Ore, ma non è un'indagine loro, è un'indagine fatta da tale statista, che è una persona. È un statista, è il cognome? Esatto. È il cognome, no, è un sito che fa le statistiche. Ah. Date attendibili, quindi... Vabbè. No, però in questo caso è interessante perché ha fatto un grafico abbastanza leggibile su dati che non si può inventare, nel senso che sono i numeri di licenziamenti, e siccome loro già tenevano conto di questa cosa per i fatti loro, hanno questa progressione interessante che parte da un inizio anno molto basso, tra aprile e maggio si inizia a crescere. Scusa, progressione dei licenziamenti. Progressione dei licenziamenti, sì. E stiamo parlando di Twitter. Non solo di Twitter, perché no, infatti... di Twitter non c'entra niente, no, stiamo parlando di una visione globale per quello che è interessante. Però quindi di lavoratori legato alla tecnologia e sì. Ok. Ecco, andava detto. Negli no? Stati Uniti dire? O nel mondo? Tipo? Mi sa che loro sono, più che altro si parla di circa 426 startup e grosse aziende. Quindi lavoratori, quindi, secondo lavoratrici... me è principalmente roba statunitense, ma poi essendo che le cose si diffondono, certo. Arrivano anche, in realtà arrivano anche fino in Italia, però diciamo che la maggior parte è il comparto americano legato a Nasdaq, okay. Cioè la parte finanziaria di... Sono due cose che si sposano un po', no? Come quei vortici un po' che si innescano ogni tanto, cioè uno perde di valore, quindi licenzia la gente, quindi perde di valore. Di solito innesca prima la perdita di valore, cioè quando le tue azioni crollano parecchio, te ristrutturi l'azienda... È come se stessi confermando questa cosa, quindi se licenzi un sacco di gente, non fai nuovi investimenti, probabilmente hai preso una spirale negativa. Quello che tentano di fare tutti è questa ristrutturazione che comporta licenziare gente e investire in cose nuove. Questo nell'ottica più o meno della fuffa da innovazione è quello. Cioè io dirotto i soldi... Sì, licenzio e provo a reinventarmi con una cagata in genere. Tendenzialmente sì, anche perché licenziando probabilmente perdi anche l'organico. Certo, sì. Quindi sì, hai sì, anche no, meno poi... No, nel senso che perdi anche quell'organico che ti servirebbe per fare ricerca e sviluppo. Quindi è complesso poi rendersi credibili rilicenziando. Per questo tutte le aziende lo fanno tipo di solito cospargendosi il capo di ceneri, così. Meno Twitter, che non gliene fotte un cazzo, però loro è un licenziamento diverso. Di questo magari se ne può parlare dopo lo stacchetto musicale. Io adesso introdurrei invece la visione generica, perché Twitter è un caso molto atipico, cioè si inserisce in questo trend ma non c'entra tantissimo con questo trend. Sì, parleremo di Twitter ma anche di Facebook, di Meta, insomma. Sì, però non Facebook solo... invece si inserisce pienamente in questo, okay, trend. Cioè le aziende che hanno patito molto sono anche delle cose abbastanza insospettabili, perché sui giornali si sono citate quelle famose, però per dire che ne so, Netflix ha licenziato, ma ha licenziato pure un'azienda che era Carvana, che è un rivenditore di auto usate online. Lui ha licenziato più dipendenti di Netflix, ha licenziato 2500 persone. Quindi sì. È una crisi che in generale è molto diffusa. Ha beccato tutto il comparto high tech, e i nomi grossi fanno più scalpore, no? Perché tipo Netflix ad esempio ha licenziato mi sembra 450 persone, che è tipo il 4% dei dipendenti. Boh, cioè, e arrivava una percentuale... sì, che non sono le 2500 di quegli altri, cioè quegli altri avranno licenziato la metà delle persone, e questo è successo a maggio. per quello che aprile e maggio sono questi due mesi in cui il grafico boom schizza in alto. E poi cioè, ci sono anche delle cose che, ad esempio, che ne so, hanno tra le startup, no? Ce ne sono alcune che hanno fatto abbastanza il botto durante la pandemia, e questo è una specie di mantra, cioè, di tutto il periodo. Cioè, tutta questa cosa molti la leggono come è perché durante la pandemia il botto era pompato con la sfiga. Sì, con la sfiga, quindi era anabolizzato in qualche modo, no? Cioè, erano tutti a casa, alcune cose le hanno comprate di più. Anche Amazon, per dire, ha subito non un tracollo in termini di licenziamenti. Amazon ha fatto un altro trucco, cioè un altro trucco, ha fatto un'altra cosa che non ha più assunto, perché probabilmente per mantenere il suo livello di gli serve ancora la manodopera, non ha però le stime di guadagno per questo trimestre qua sono state molto in caduta rispetto alle previsioni. Questo genericamente ha come ricaduta diretta, è successo a Google, è successo là, il fatto che tu perdi valore in borsa. Cioè, chiaramente l'azionista, quando non gli puoi garantire che gli darai la rendita, cioè i guadagni, le azioni perdono di valore e quindi si rinnesca di nuovo questo ciclo dove tu, per starci dentro, devi stoppare le assunzioni, ristrutturare, rilanciare, e si ricrea questo vortice che per alcuni è più disastroso e per altri meno. Ok, quindi però c'è stato quindi una serie, insomma, di azioni diffuse in tutte queste aziende più o meno grosse, più o meno famose, in cui sono state in contemporanea perdite e licenziamenti di queste aziende, fondamentalmente. Sì, ecco. E poi appunto la cosa interessante di queste crisi, che non è che sono... C'è stata la crisi delle dot-com, no? Ce ne sono state tante, no? Alcune volte si parla di bolle, in questo caso sembra più una crisi dovuta appunto a un mercato che è stato pompato per tanto tempo da una situazione alquanto particolare. Terminata quella situazione tutti si aspettavano botta di entusiasmo, cioè la gente continuerà a comprare anche solo perché non poteva fare un cazzo, è stata chiusa in casa, inizia la guerra in Ucraina, che comunque ha dato un'altra bella botta di depressione economica, no? Ora, negli Stati Uniti probabilmente l'accusano forse meno che da noi, però tanto essendo che i loro profitti dipendono da quelli degli acquisti di tutto il mondo, e capisci che se noi stiamo in botta l'accusano anche quegli altri, anche se il loro mercato negli Stati Uniti magari non ha avuto contratture dovute alla guerra in Ucraina, anzi probabilmente il mercato del gas liquido che ci portano qua rigassificato eccetera, boom, ha schizzato perché non compriamo più da una parte ma compra dall'altra. Beh, sì, però questo non ha avuto una ricaduta diretta su queste aziende che invece erano più legate alle cose comuni, cioè tipo una startup che è crollata, che mi fa ridere, era, no, mi dispiace, questa startup alimentare a base vegetale che si chiama Beyond Meat. Poi un'altra che ha subito scusa, ripeti il nome? Beyond Meat. Madonna, però. Cioè, un'altra che è andata giù di brutto il produttore di attrezzature per esercizi fisici Peloton. Però scusa. Oh, quest'ultimo ha avuto una botta assoluta all'interno, cioè durante la pandemia. E questo Peloton, scusa, di dov'è? È sempre statunitense. No, perché sono, cioè, credo, sì. Ma, e scusa, poi, aspetta, ha avuto un botto durante la pandemia? Sì. Perché la gente non poteva uscire, non poteva andare in palestra e... Oh, non si trovava niente, eh. Io cercavo di comprare durante la pandemia, volevo comprare i kettlebell, che non ci sono riuscito. Cosa sono i kettlebell? Quindi, adesso una nuova puntata sui kettlebell. Che cazzo sono? Che sono kettlebell? Kettlebell. Quella palla con il manico per tenerla, che usi per fare ginnastica. Quella che nelle grafiche c'hanno quei tizi cicciottelli con i baffi buffi. Sì, è un po' hipster, perché sì, fa un po' forzuto dell'Ottocento. Esatto, intendevo proprio lui. Però grazie, ha sostituito, grazie. Di fatto è diventato ha sostituito di brutto il peso, quello classico, quello componibile, col manubrio, no? Okay, però cioè, aspetta, nessuno non ci prendiamo da usa i manubri. Hai ragione. Scusami. È vero, tutti è vero. Usano i kettlebell. No, io no. Sono riuscito a comprarlo solo a pandemia finita, quindi cioè, ho dovuto aspettare per mettermi in forma, capito? Capito. E quello te lo vendeva la Peloton? Non lo so, però mi immagino che se tutti hanno avuto queste difficoltà, cioè chi riusciva a ottenere dei kettlebell? cioè la chat che ho con le mamme, tutti erano a chiedersi Peloton, sì. Poi se volete facciamo ora abbiamo inquadrato un pochino, poi possiamo entrare in alcune cose precise. Però magari ci entriamo dopo una pausa musicale. Farei lo stacchetto musicale, perché dopo avrei una specie di proposta di schema, no? Perché si potrebbe parlare un po' delle cose grosse, tipo Meta, perché è quella che ha iniziato i licenziamenti ora, sarebbe interessante. Poi inquadriamo quella stramba, che è Twitter, e poi facciamo un punto finale su un ramo che non viene citato spesso, ma che è interessante da indagare, che è quello della finanza tech, cioè le criptomonete, la cosiddetta... Sì. Finanza, la criptofinanza, come cazzo, ma dai, sì. Dai, quella cosa della la finanza delocalizzata, no, decentralizzata, decentralized finance. Stai dicendo una cosa a caso oppure... No, veramente, si chiamano così, cioè comunque le criptovalute. Comunque questo è interessante perché anche loro hanno dato, sono da un bel po' di tempo... Cioè hanno iniziato questa crisi anticipando tutti gli altri, però ora hanno un discreto tracollo. Va bene, quindi andremo a vedere questi casi un po' particolari, specifici. Io prima di entrare nel dettaglio, prima di fare un po' una piccola pausa musicale, volevo chiederti, non so se nei tuoi grafici fatti dal signor statistico Luigi Statista, chiamiamolo con Lu e basta. Lu. Non so se nei suoi grafici questa cosa c'è scritta, ma mi veniva la curiosità, tipo per esempio, che tipo di licenziamenti sono? Nel senso, si parla di licenziamenti di tecnici, si parla di licenziamenti magari per esempio anche nell'indotto un po' più largo, perché io mi immagino anche per valutare la crisi di un settore si capisca anche da che tipo di licenziamenti fai. Perché Se si riuscisse a scendere così nel dettaglio, in realtà stanno tutti abbastanza... Cioè, nessuno ti spiega niente, no? Sono usciti. Ma secondo me sì, poi c'è una roba che per noi in Italia è abbastanza particolare, per fortuna, però nel mondo dell'high tech, con capo gli Stati Uniti, eccetera, cioè questi non c'hanno i sindacati. Sì, è vero, questa cioè, non c'hanno un cazzo di sindacati. In certi stati è illegale, tipo, non puoi unionizzare. E quindi tendenzialmente è difficilissimo riuscire a capire cosa succede all'interno. Cioè, lo vedi che questi pensano sia normale licenziare la gente mandandogli le mail. Certo. No? Cioè, noi abbiamo avuto l'esempio per Antonovese, non so, questo a Campi Bisenzio, no? Che la ditta londinese, non legata agli americani, però comunque sempre quel mondo lì, cioè ha licenziato la gente della CKPN, mandandogli un messaggino. Capito? Poi loro, cioè noi che, e anche probabilmente in Inghilterra, che abbiamo una tradizione sindacale, probabilmente questa cosa siamo riusciti a farla uscire. Cioè la stessa cosa alla fine la fanno anche Meta, la fa anche Twitter, ma non è che lì ci sono delle... Cioè non fa scandalo. Cioè, se da non noi fa scandalo, questa cosa... quantomeno non sono abbastanza organizzati per fare un'analisi che può portare a una vertenza o a cose simili. Cioè noi anche attraverso la sindacalizzazione, soprattutto quella di base, ti permette di capire come funziona l'organigramma aziendale, cioè di tutta questa trafila del licenziamento, no? Cioè, in qualche modo da noi è molto più trasparente, perché è molto più sotto gli occhi di tutti. Beh, ci sono anche delle anche perché regolamento. La discussione, ad esempio, tipo un aspetto della discussione americana sul tema è che delle due cose che succedono in parallelo, licenziamenti e perdite, l'attenzione è solo sulla perdita oggettivamente dell'azienda. Cioè il grosso della discussione che venne fatta è appunto porre l'attenzione su un caso magari di maggiore interesse, che fa più rumore, come quello di Twitter, di Musk, eccetera eccetera, quando invece c'è appunto una tendenza globale che ha delle ripercussioni sulla gente normale. Però proprio il grosso della discussione, almeno per come l'ho vista io un po' da frugatore del tutto estemporaneo, ad esempio, che ne so, di Twitter, è proprio questo. Cioè che mi sembra che tutti parlino dello scandalo dell'azienda che perde, non delle persone licenziate, o quantomeno addirittura ridicolizzano in maniera del tutto stupida, secondo me almeno, le dinamiche che succedono appunto magari tra il team che fa l'ultimo tweet da dentro, cioè banalizzano la loro... l'esperienza delle persone che hanno palesemente un privilegio dentro quelle aziende e non considerano un'onda lunga che sta succedendo dappertutto. Cioè venne molto cioè molto superficiale l'approccio, appunto è tutto in questa California sognata un po', cioè tanto primo, cioè c'è un'aspettativa che queste aziende si riprendano e quindi venne posta l'attenzione tantissimo su questa innovazione promessa che è del tutto da realizzare. Cioè questa cosa qua è un ragionamento che mi è venuto in mente a me, a parte ora, però di recente, vedendo proprio questa iperattenzione all'azienda del cazzo, che è già tipo Musk è la persona più ricca del mondo, e viene posta attenzione sul fatto che Twitter abbia perso dei soldi, ma che cazzo se ne frega, cioè vabbè, c'è da dire che tendenzialmente la maggior parte di queste aziende si inseriscono a pieno titolo in un sistema che è abbastanza costruito su un modello tipo quello che non cioè quello che non ammazza in grassa, non lo sì, so sì. Cioè nel senso che per molti analisti in maniera abbastanza spietata, no? Perché appunto è il modello questo in cui c'è più il digitale fa tutto un lavoro in qualche modo per separarsi dalla realtà, no? Per dare questa immagine di fluttuante, eccetera. Sui licenziamenti tu in qualche modo lo riporti a una materia molto viva, perché sì, sono le persone che vengono licenziate. E però da cioè in questo strano mondo tendenzialmente da molti è visto come una cioè appunto il capitalismo è perennemente in crisi, no? È proprio crisi. E per molti è il modo di discriminare le cose che funzionano da quelle che no. Cioè, capito? Sì, se sì, la tua azienda tirerà avanti lo stesso, allora tu avevi diritto di sopravvivere. Sì, cioè, sì, se no, parisci è perché sei un perdente. Capito? Cioè, l'ottica è molto questa. Quindi è anche difficile rivolgere la crisi contro. Perché in qualche modo cioè sembra che sia una cosa che è la natura. No, ma io no, che poi è una natura, dice, vabbè, la natura no, cioè la natura sono io, la carne e sangue, cioè queste sono, cioè, lì abbiamo costruito il sistema così. Potevamo anche farlo perché fosse no, meno okay, no, infatti, tremendo, guarda, no? Il senso era ok, forse appunto ingenuamente, però qua è stupefacente in un certo senso, almeno ai miei occhi, quanto era così confermato quello stereotipo, no? del capitalismo, sì, del fregarsi nel cazzo della persona, del guardare soltanto a un profitto di una persona che è la persona più ricca del mondo, cioè non, nessuno, cioè oggettivamente i soldi non hanno alcun valore per lui, quindi è davvero surreale, era solo questo, però nonostante tutto era così. Che bel mondo. Sì, allora sì, no, perché qui stiamo sgrezzando. Metti la musica, basta. Sì, infatti, metterei la musica perché poi giustamente ci mettiamo a divagare su un tema che, cioè, come dire, non a caso è sulla bocca di tutti. Però, allora, vi facciamo un po' riposare. Quando ti ricapita di avere qua cioè, due opinionisti. Certo, più che altro e degli avvoltoi. Che... Cioè, il salotto. Sì. Bene, no, però qui invece momento tristezza, perché è morto Keith Levine. Mi è stato detto si dice così, non lo so se si dice così sinceramente, il chitarrista dei Peel, e quindi vi mettiamo facciamo un piccolo omaggio facendovi sentire Rise dei Peel, che tu mi dici Public Image Limited, perché sennò non si è capisce. È un prodotto interno lordo, sì. Dai, ma Peel cioè, comunque se non conosce dei Peel, madonna mia. Ecco qua, i Rise appunto dei Peel. I could be wrong. Com'è bello questo video, vi invito a guardarlo se ve lo siete perso, io non me lo ricordavo, è veramente bello. Sono forti questi prodotti interno lordi. Questo gruppo di giovani nuovi. Sì, sì, sì, sì, sì. Sì, dicevamo prima di Fogliano della Chiana, che ti sei perso, sì. Ma sì, sì, sì. Sì, un gruppo nuovo. No, vabbè. Ma ti segue adesso? Ah sì, sì, sì, guarda. Settimana prossima. Sì, magari suonano da queste parti, non si sa mai. Bene, e allora dicevamo che saremmo entrati un po' più nel dettaglio delle dinamiche, delle sfighe che riguardano Meta in particolare. Sì, facciamo prima Meta. Meta, il nuovo nome di Facebook, quello che noi vecchi chiamiamo Facebook, ma invece si chiama Meta. Ma una volta era Facebook. Infatti. Adesso si è espansa. Si è insomma... Espanse e poi no, si è... E le, che dire, cioè, si può prendere come caso emblematico, perché però è interessante, in realtà è emblematico per alcune cose, però per altre è molto peculiare, nel senso che loro l'hanno passata come, e tanto stanno licenziando tutti perché il settore è in calo, perché la pandemia ha fatto il boom, e poi è chiaro, ora è finita la pandemia, abbiamo bisogno di meno gente, non prima ci serviva la gente per reggere il boom, ora la gente ha ripreso a uscire di casa, così, cioè, passano meno tempo davanti al computer, e questa era la quella da sempliciotti. E questo più o meno lo dicono tutti comunque. In parte sarà pure anche vero, non lo so. Il padel va un casino quest'anno. Niente, cioè è uno sport stupido, scusa. Lo so, a Torino spacca, Hanno superato i campi di padel. Hanno superato i campi da tennis a Torino. Cioè, gli insidi hanno capito, sono là dietro proprio. Ma guardato con un occhio killer, non capivo se era... Ok, era di accettazione, non l'avete capito. Va bene, continuiamo con Meta. Va bene. Allora, il caso invece di Meta è più complesso, perché effettivamente loro negli anni, cioè tu guardi cosa stanno facendo e sembra che si stiano espandendo, no? Perché avevano Facebook, ha comprato Instagram, e poi però ci siamo arenati, nel senso che tutti i progetti che ha lanciato negli ultimi 10 anni hanno fatto cagare, cioè nel senso che non portavano a casa uno. Non so se vi ricordate, c'era quello su per buttarsi nel mondo delle criptomonete, come si chiamava? Avevano fatto sì una piattaforma di gestione, sì, che tipo... non sono riusciti a farla partire, però sì, ma anche soltanto appunto lo stesso Meta e la roba della realtà virtuale, sì, ok, però quello è il progetto attuale, no? Questa è la cagata, sì, attuale, ma non so se nella realizzazione pratica ci sono questi busti con la grafica di Sims del 2002. Che sono solo busti, non hanno le gambe, cioè sono stati derisi per tipo per i primi 5 anni, che, cioè, ma che cazzo me ne frega. Ma infatti la cosa interessante, cioè vabbè, tutta questa cosa qui non fa ridere, poi non gli si può dire niente, no, perché no. Questo, c'è, cioè, la finanza lo porta così, certo. Cioè tanto ogni tanto dirgli che è un coglione, però poi lo riporta sempre così, no? Cioè questa cosa del metaverso sembra veramente l'immaginario nerd del signor Zuckerberg, che ha deciso che siccome a lui gli piacerebbe un sacco questa cosa, allora anche a noi ci piace tanto. che è una roba un po' particolare, no? Perché sembra che lui si sia bloccato il cervello da al film Hacker, quello con Angelina Jolie, capito? Dove c'era questa visione, capito? Che cioè, tu stavi proiettato nel cyberspazio, cioè tutte queste giravine. Però storicamente poi queste cose si sono sempre arenate nel niente, no? Cioè, quanto c'era stata Second Life, quanto è durata Second Life? Per lanciare Facebook. Pochi anni, sì. Sì, un anno, due. Cioè, una roba, poi la gente si è rotta il cazzo. E quindi, boh, non riesco tanto a capire, cioè, quale sia la possibilità, cioè, o convince veramente una massa critica di persone che questo è anche il loro sogno e che noi vogliamo veramente usare internet col visore in questo mondo 3D... Però io non lo so, cioè magari poi tra 20 anni li funziona, a me mi sembra una cagata, però è la mia. Però il problema è che, a parte questa, che non lo sappiamo come va a finire, no? Perché bisogna dargli il beneficio del dubbio. Cioè no, nel senso che si può dire lo stesso che fa schifo, però non sappiamo effettivamente dove se andrà a finire. Sì. Esatto, però quelle altre che ha provato sembravano che non fossero finite bene. Cioè, tipo lui aveva provato, ora adesso faccio un po' fatica a ricordarmi i nomi dei progetti, però ce n'era uno sicuramente che voleva fare un mischione di Facebook, Instagram e farne una mega piattaforma di e-commerce che si chiamava tipo Shops, mi sembra. Eppure quello non è andato bene. Cioè, sì, era Shops, era proprio. Poi c'era... Sì, che si poteva pagare tramite la valuta. Libra, ecco, Libra, come cavolo si chiamava la criptomoneta. Moneta. Esatto. Che non ha funzionato neanche quello, è stato... ma poi... perché gli hanno tarpato le ali, dai, però. Lasso, invece, che cos'era Lasso? Cioè, questo nome che ricordo attaccato a Facebook e non mi ricordo. Che cos'è Lasso? Sono gli occhiali, i visori? Ah, sì, vabbè, anche lui ci aveva provato, sì, mi sa. Non lo so, ora però non è che ci puoi interrogare così senza dirci prima su che cosa ci interrogherai. No, non c'entra niente. No. Lasso era... il suo assurdo tentativo di lanciare un competitor per TikTok. Ah. Aveva provato a fare la piattaforma tipo quella. Così ha detto: ce l'ho tutte, c'ho Facebook, Instagram, Lasso. Cioè, però alcune gli vanno in porto. La maggior parte, cioè, no. È vero, appunto, sembra che, parlando a livello opinione pubblica, sembra, beh, Facebook è il primo successo iniziale. Instagram, l'acquisizione a un certo punto, quando era in un momento di crescita, l'azienda era grossa, che quindi si è comprato uno strumento che però già funzionava, era già di successo. E infatti, e a parte quello, che lui ha provato poi a unirle, ma in maniera goffa non è riuscito. E alla fine, quello che riesce a fare attualmente è quello di mandare avanti uno e mandare avanti l'altro. Esatto, no, intendevo, però, insomma, a parte questa intuizione, botta di culo, quello che è iniziale di Facebook, il resto non è niente di inventivo, di creativo. Cioè, era comprare un'azienda che già funzionava oppure sbagliare fino adesso. Oppure buttarsi in un tot di progetti, appunto, che non hanno portato. Però in questi anni, cioè, in qualche modo loro hanno accumulato personale, perché in qualche modo per portare avanti tutta questa roba, se avesse funzionato, sarebbe servita tanta gente, probabilmente anche molta più gente di quello che serviva. Però non è che non so quello che dire, non è che vorrei passare da analista che gli fa le pulci dicendo sei cresciuto troppo, se ne pigliavi di meno, oppure se ogni volta che sbagliavi licenziavi la metà della gente, adesso era meno traumatico perché li diluivi nel tempo. No, posso dire anche, magari però anche... è proprio il tipo di approccio di questo tipo di economia, no? Che è molto pompata e quindi tende a creare... cioè, se tu vuoi contare qualcosa, sembra che io conto qualcosa, se divengo una grossa azienda devo avere anche tantissimi dipendenti. È come se io sono un re e c'ho tantissimi sudditi. E quindi questo rapporto è un po' malato, perché tu ti porti, cioè ti, in qualche modo negli ultimi 10 anni hai assunto tantissima gente e adesso ti rendi conto che i conti non tornano e quindi sbrabram, cioè devi cacciare tutti. Anche perché secondo me la questione che dicevi... Però il punto è che quando lui assumeva, scusami, sono l'ultimo, poi ho finito il ragionamento, che quando lui assumeva nessuno gli ha detto ma guarda che stai pisciando fuori dal vaso. Cioè, fino a che le cose sono ottimismo, il capitale è contento che ci sia questo ottimismo. E che poi sembra che lo devi portare avanti per sempre, che devi crescere. Infatti, per avvalorare questa cosa che dicevi, secondo me anche perché la questione dipendenti, la questione che dicevamo prima del in fondo ha provato vari progetti che poi gli sono andati male, ma non è perché lui è scemo, cioè perché comunque serve a dare, a creare immaginario e creare in qualche modo un po' un mito di un'azienda che sta come dire creando il futuro, che sta facendo il progresso, sta facendo storia, e tutto ciò fa sì che le tue azioni in banca crescano enormemente, pompate di entusiasmo. Cioè, alla fine il capitalismo finanziario si basa in gran parte su questo, almeno in una buona parte su questo, e quindi tu non è che puoi quotare l'azienda in borsa rendendo conto soltanto delle piccole cose che fai col bilancio e come va. No, c'è tutto un immaginario dietro, e quindi chiaramente tutto quello che cioè, i dipendenti sono solo un pezzo, secondo me, della questione. C'è anche tutto l'intorno, cioè tu devi in qualche modo pomparla di immaginario, di filosofia, condirla con tutta una serie di cose in più che fanno sì che quell'azienda non sia un'azienda, ma sia un mondo, che sia un investimento sul futuro. Tant'è che Meta, quando si parla di Meta, si parla delle cazzate che spara Elon Musk, non se ne parla come il tentativo di un... Siamo passati a Twitter. Sì, scusa, sì, ma Zuckerberg o chiunque sia. Comunque non se ne parla come di un... semplicemente un manager che prova a fare qualcosa, se gli va bene gli va bene, se gli va male gli va male. No, se ne parla sempre con quest'aura di investimento sul futuro. Ecco l'umanità che fa un passo avanti e scopre gli occhiali con la realtà aumentata. E tutto ciò non è che è solo una questione ideologica, è anche qualcosa che fa sì che poi in banca chiaramente questa cosa viene pompata. Tant'è che questa cosa dell'immaginario è super, cioè anche a me mi torna molto, nella misura in cui, cioè, immaginario vuol dire anche creare imitazione, quindi ci sono dei tentativi frequenti, no, di queste aziende, in genere delle aziende più grosse che hanno più disponibilità, di provare comunque sia dei progetti per dimostrare di essere al passo con i tempi, pur sapendo che saranno fallimentari. Cioè mi stupisce di meno la storia di Lasso, ad esempio, perché sono abbastanza certo che troveremo degli investimenti da parte di Apple, di Google, di tutti i grandi attori dell'high tech internazionale in piattaforme che non hanno avuto successo, ma che si sono, cioè, in un certo senso quell'immaginario di cui si parlava è trainato questo spirito imitativo in cui comunque sia ci dovevi provare a buttarti in quel campo, sì, se no, insomma, conti niente. E farti vedere che comunque sia eri attivo in certe direzioni, e questo ovviamente porta, cioè, sì. Se, nel senso, un fallimento magari che nell'ottica di una gigantesca azienda risulta irrisorio sono magari 500 persone, che ne so. Sì, cioè, ma poi noi ora parliamo, ci stiamo concentrando molto sulle persone, giustamente, ma poi ci sarebbe anche da fare un discorso, probabilmente non emerge adesso, ma sarebbe interessante investigare anche in quella direzione, per esempio sugli immobili, che ne so, cioè sai quanti immobili si sono comprati, quanti colline hanno spianato per dar fondo a un progetto che poi magari non è andato neanche a buon fine, che forse non ci avevamo quasi mai creduto, che però serviva appunto a tutto questo. Comunque poteva comprarselo TikTok al posto di farne un altro. Ma no, perché lì era soltanto... In effetti, cioè, avrebbe sicuramente risparmiato da voi questa assemblea. Scusa. No, è vero, è vero. No, e comunque un dato che può essere interessante per fare capire la crisi che è come, cioè, che si tocca in termini di cifre, poi noi ci siamo concentrati su il dato 13% di licenziati, non so se l'avevamo ancora detto. No, non l'avevamo detto. Ok, non sono pochi, nel senso che per un'azienda, cioè numericamente, ad esempio, sono più di quelli che ha licenziato Twitter, che erano licenziati la metà, perché l'azienda era più piccola, quindi numericamente comunque Meta si è disfatta di un sacco di persone. E il fatto che però, se noi guardiamo quanti soldi ha perso in borsa, si capisce il problema. E guardiamoli questi soldi in borsa. Sì, allora, a ottobre dell'anno scorso, cioè a fine ottobre, valeva $300 Facebook in borsa, cioè veniva scambiata $300 ad azione. Ecco, no, perché aspetta, ad azione, perché sennò era, cazzo, me la compravo. Un anno dopo, cioè quindi i dati del 26 ottobre, era scambiata a 129, cioè quindi perdeva il 57% del valore. se lo si guarda, è una roba abbastanza devastante per un'azienda. Cioè, per un'azienda che ha investito così tanto su cresco, arrivare che in un anno il valore delle tue azioni si più che dimezza, è qualcosa che faceva presagire ristrutturazione e licenziamenti. Ma poi è stato un crollo, scusami, temporaneo? Cioè, a un certo punto si è ripresa oppure no? Adesso sta attualmente viaggiando su queste cifre. Se vuoi provo a guardare quanto le vendono oggi, semmai non si è ripresa tanto. Cioè, mm-hmm. Il 26 ottobre era neanche un mese fa. No, ok. 26 ottobre, ok. E sì, non no. È che aveva fatto il botto. Mm-hmm. E soprattutto non è che il mondo sia migliorato particolarmente. No. No. No, comunque, insomma. Va bene. E quindi... Oh, tendenzialmente no, è peggiorata. Cioè, 114 oggi la scambiano a 114. Meta Platform Inc. la scambiano a 114,26. Qui si continua a peggiorare. Quindi questa cosa dei licenziamenti non ha fatto bene, come giustamente si diceva all'inizio. E stai quello che dicevo prima, cioè nel senso che stai dimostrando che sei in crisi. Quindi tendenzialmente il mercato non ti premierà, cioè perché per premiarti dovresti fare, nella loro ottica, sì, mandi via tutti, ma c'hai un mega piano di rilancio, e invece dove c'hai i robot, cioè quello che sta facendo Zuckerberg è dimostrare non so dove cazzo voglio andare e non so bene come raccattarmela, cioè, ho poche idee ma confuse e ho messo davanti a tutto il metaverso, che è una roba che però cioè non convince. È ma strano, guarda, perché e quindi... era una così bella idea. Così, e io chiuderei qua la nostra presa su Facebook. Mettiamo un pezzo con questi presagi di sfiga che comunque gli auguriamo. E poi parliamo di Twitter comunque. Che peggiorino. Sì, poi parliamo di Twitter. Nel frattempo ci ascoltiamo un pezzo degli Stray Cats, perché così mi andava. E non è morto nessuno degli Stray Cats, però io lo volevo mettere. Almeno non di recente, cioè, e non a nostra conoscenza, no. Quindi non è una dedica. No, esatto, però appunto mi andava lo stesso. Stray Cat Strat. With my tail in the air. Stray cat strut, I'm a please cat. I'm a feeling Casanova. Hey, better than that side. Get a shoe thrown at me from a mean old man. Get my dinner from a garbage can. class and I got cat style. Dicevi quindi fuori dai microfoni che non ti ho sentito che c'era la musica. No, stavamo facendo un confronto, no? Dicendo Facebook ha perso più il 60% del valore rispetto all'anno prima. Abbiamo detto guardiamo anche Twitter. Mm-hmm. E in realtà Twitter dai grafici praticamente ha recuperato lo stesso valore che aveva l'anno prima. Cioè viene scambiato a 53,70 oggi, l'anno fa era 53,35. Quindi in effetti Twitter... ha avuto degli up and down che però sono più legate, secondo me, a questa lunga vicenda, no? Che è stata la vendita, perché è stata una telenovela. Cioè nel senso che c'è Musk che ha detto la compro, e poi ha detto non la compro, e poi ha detto no, poi la rivoglio ancora. Cioè tutto un cinema così, no? Ha detto sì, ti do solo più 5.000 lire. Cioè ha fatto tutto questo cinema, poi alla fine se l'è comprata. Che poi comunque sia, lui era già azionista di Twitter. Cioè una cosa che comunque sia tipo, ah no, ora... Ma lui la voleva tutta. Sì, sì. No, però nel senso ne faceva già parte, quindi anche tutto questo scandalo di lui che se la prende è buffo. E quindi, niente, mi ha detto appunto i licenziamenti di Twitter sono un po' diversi perché sono più tipo ho comprato e quindi nuova gestione. Cioè, entra il nuovo padrone, butta tutto all'aria, ristrutturazione, sfanculiamo tutti, tagliamo tutto. E, cioè, in questo senso, però dicevo che in borsa c'è un valore diverso perché come è entrato lui sembra adesso rimetto io in ordine. E quindi l'investitore dice, ah vabbè, ma questa si avvia a essere un'azienda solida, no? Invece quell'altro sembra il barcone su cui sono saliti tutti, con questo che non sa guidarlo, e quindi quando lui licenzia l'effetto è, compro ancora meno azioni, perché non mi rassicuri in questo strano gioco della fiducia che... Poi nella realtà appunto, cioè comunque ha licenziato il 50% delle persone, poi ne ha detto, poi non si capisce anche lì perché poi hanno detto sui giornali, no ma li sta riassumendo perché si sono sbagliati. Ho detto, cioè, però, che è una roba, dici, però capisci che cioè, già così io non l'avrei comprato le azioni. No. Cioè, se fossi, poi io dico, vabbè, ma sei uno stronzo. Cioè, io arrivo, ho capito, già mi licenzi mandandomi una mail con quel meccanismo, ti manda una mail sulla mail aziendale, se ricevi un'altra mail sei ancora dei nostri, se non senti più nulla ti abbiamo licenziato. Ma vaffanculo, cioè, nel senso che cioè, l'ansia anche quando ti richiamano, capito? Cioè, capito? Uno magari era caduto in depressione, sì, sì. No, ma ci siamo sbagliati, torna. Ma come? Cioè, ma in effetti, sì, questa cosa qua ora era un po' chic, però insomma, sì, tu, anche lì gran parte del racconto della telenovela era proprio legata al login, no? Di tutti gli account aziendali, alla mail, al badge, cioè tutto questo aspetto appunto di che era. L'ho visto molto ripetuto, ecco, questa roba dell'accesso comunque sia all'azienda che l'ha perso dal lavoratore, che in certi casi era anche surreale. E quindi ho detto, l'effetto è molto diverso in borsa, eppure si sta parlando comunque di l'espressione, però questa non sembra l'espressione di una crisi. Capito? Perché in borsa le tue azioni valgono come l'anno scorso, anzi, cioè comunque dall'acquisto sono salite, cioè se guardi gli ultimi giorni c'è un picco che va verso su. E quindi l'effetto licenziamento di questo non sembra l'espressione di Twitter in crisi, ma sembra più l'espressione di adesso arriva lui e lo rimette a posto. Però io su questa cosa qui volevo fare un excursus su un'altra attività che ha, per capire a chi il signor Elon Musk. No, perché facciamo i nomi. Lui ha un'altra attività che ho capito che tende a farla fruttare. Oltre il fatto di essere matto. Sì, oltre a tutte le sue cagate, okay, che andare nello spazio, cioè, okay, oltre alla Tesla, c'è un'altra attività. Mm-hmm. Lui scava gallerie. Sì. Ah sì? L'hyperloop. Sì. Cioè lui con le sue mani? No, lui si è inventato, ha brevettato una fresa, una mega fresa, perché l'idea ha detto che gli è venuta perché un giorno lui usciva da casa sua a Bel Air e doveva andare ai suoi uffici, che sono a 25 km, e si è impiantato nell'equivalente del raccordo anulare di Roma a Los Angeles, no? E gli è girato il cazzo, allora ha detto, io praticamente cosa faccio? Io voglio scavare un tunnel, capito? E poi faccio andare le mie Tesla dentro al tunnel con tutte dei meccanismi, no? Cioè tipo che lui pensava di fare lì il corridoio quello con le auto, quelle che corrono magnetizzate, cioè che come le Hot Wheels, sì, che non toccano terra, no? Con tutta sta roba qua, eccetera. cioè... ha iniziato a scavare, aveva fatto una convenzione proprio col comune, no? di Los Angeles, che era contentino, ha detto ah, c'è la svolta. Dopo un po' sono andati a fare l'inaugurazione dei lavori e praticamente c'era questo chilometro e mezzo di galleria che non era, cioè non c'era la strada, era tutta una roba, e le macchine in realtà ci andavano... cioè tu sì, perché ora stai facendo il gesto, ma in radio non si vede il gesto. A scassoni. Sarebbe a scassoni, cioè non schizzavano a 200 km all'ora. Cioè era uno sterrato. Sì. Tanto che il comune ha detto vabbè, senti, lasciamo stare, no? Ci abbiamo la metropolitana, al limite allarghiamo la metropolitana e siamo a posto così. E lui cosa ha detto? Ha detto ok. Allora io cosa faccio? Faccio il parcheggio per i miei dipendenti dell'azienda, che non mi ricordo quale cazzo c'ha lì a Los Angeles, degli uffici, e l'ha trasformato in un parcheggio. Però no, aspetta, nel suo essere un cazzaro geniale, sì, la galleria diventava un parcheggio. Un parcheggio, ormai ha scavato e si fa parcheggio per i dipendenti. Okay. Però nel suo essere un cazzaro geniale, tipo monorotaia dei Simpson, proprio come stile, è riuscito a venderla alla città che è la cazzara per eccellenza in America, Las Vegas. Cioè? Ha costruito un tunnel funzionante che collega alcuni casinò di Las Vegas. Che però vanno sterrati perché non... Dice che i giornalisti l'hanno provato, perché lui lì l'ha fatto, è un po' più corto, era più fattibile... Per mezzo dice a niente. Ci sono i video con... si è creato un ingorgo praticamente. Cioè l'aveva fatto. Che lui aveva fatto tutte delle cose che scendono gli ascensori, cioè finiscono in questo... In realtà poi praticamente è un trasporto taxi in cui tu sali sulle sue Tesla e vai in questo tunnel dove dovrebbe essere veloce. Il problema è che è difficoltoso il transito, perché lui per risparmiare li ha fatti strettissimi, no? Ha fatto tipo il trenino dell'amore e quindi fa vedere dei tratti ma anche molto lunghi dove si era creato un ingorgo, e c'è il giornalista che riprende, che era lì a fare il video, e vanno a passo d'uomo. Ah. E quindi sostanzialmente e non cioè ha fatto peggio che stare sul gra, in fondo. Sì. Tanto valeva. E poi ma scusa, c'è, ma ce l'ha un suo professore invece di Tesla quando era di Elon Musk quando era all'università, che ha tirato fuori una chicca interessante su questo. Cioè gli ha fatto le pulci, ha detto "Ma supponiamo che la tua idea che non funziona, ma supponiamo che funzioni. In che modo diminuirebbe il traffico in superficie?" Perché lui dice, facciamo finta che la gente si convince che di là va molto veloce, però, e questo svuota la superficie, però dice, però cazzo, io se sono sottoterra di Los Angeles non vedo niente. Allora, visto che tanto si è svuotato, io sai che faccio? Per andare al lavoro mi faccio una passeggiata sopra. E quindi lui ha detto, più funziona sotto grande. E più la gente tornerà sopra perché si svuota e quindi si ringolfa sopra. No? E quindi lui ha detto, quindi alla brutta riusciresti a farlo funzionare a senso alternato. Perché... No, vabbè. Era per dire che appunto tutta questa fiducia che lui risolleva Twitter io non ce l'avrei. No, non perché tanto. Non ha dato prova che in altre situazioni. Però lui continua a cercare di rivendersela. Cioè la cosa di questa persona che è che comunque lui gli vanno male le cose, lui ci fa il parcheggio e se la vende a qualcun altro. E cioè ha questo modo di fare un po'... Da venditore d'automobili. Sì, da quello che comunque si ricicla sempre le cose, fa girare un sacco di soldi e ha tutti questi investitori milionari. Ma anche ad esempio solo non mi ricordo infatti anche lì la branchia specifica dello spazio di Musk. SpaceX, quella SpaceX, esatto. Che vuole andare... Però se ti ricordi i primi 10 anni buoni, è stata una serie ineguagliabile di insuccessi, ci furono tanti, cioè era molto... Secondo me lui rappresenta un casino quelli che credono nel sogno americano di un capitalismo aggressivo, eccetera, vorrebbero. E in questo modo, cioè, comunque, siccome sono quelli che hanno i soldi, cioè, se io devo scegliere, io comunque li do a te, perché siamo stesso odore. No, però ad esempio, anche lì, per confermare quello che dicevi te, se ci pensi, il tecnologicamente la cosa, diciamo, gagliarda che si rivende con SpaceX è che riatterrano. Sì. Se ci pensi, cascano in mezzo all'oceano. Sì, ma se ci pensi è perché ti immagini più per tutti i suoi test quanti ne ha sprecati, cioè è esattamente quello, cioè di tutto quell'aspetto tecnologico non ha vagliato l'atmosfera, l'orbita, quello quell'altro, ma il riatterraggio, quindi il riutilizzo, che poi se uno vuole nel senso anche senso proprio tecnologico stretto, però è buffo, ora mi è venuto in mente rispetto a questa cosa, cioè a tutti questi suoi fallimenti, cioè è un ottimo utilizzatore dei suoi fallimenti, insomma, cioè, in un certo senso. Sì, c'è da dirlo. Cioè, speriamo che i suoi 9 figli siano degli incapaci, a meno di lapide non capitale, non ce li abbiamo più tra le palle, perché altrimenti è una tragedia. Sì. Maschio, cioè. Anche perché quanti ce n'ha? 9. C'ha 9 figli, sì. Cristo. Ce lo so. Vabbè, così. Bene. Quindi Twitter l'abbiamo fatta? Andiamo con la musica. Andiamo con la musica. Andiamo con la musica, va. E ci meritiamo, secondo me, Duke Ellington. Un pezzo che ho sentito oggi su un'altra radio. Vabbè, su Radio 3, ok. Che però mi è piaciuto, quindi ve lo beccate. Chinoiserie. Sono i nostri concorrenti diretti, proprio Radio 3. Sì, ah, sì. Vi vengo a prendere. Ah, ma noi gli copiamo la musica. Non è assolutamente il pezzo che avevo sentito oggi, però ci è piaciuto. Sì, c'è anche piaciuto. Perché comunque ci stava con Elon Musk che scava buche. Sì, è vero, è un bambino che fa cagate sotto terra, quei trattoroni. Vero. Ma infatti potevamo non dire niente, ma chi se ne accorgeva di nuovo? Vabbè, ma io me ne accorgo e poi così. Vabbè. Che devo fare? Comunque se tiriamo sempre dritti, se non si accorge mai di niente nessuno. Vero? Sì. Comunque in realtà era una versione di Duke Ellington dello Schiaccianoci, cioè ha rifatto tutta la suite dello Schiaccianoci, scusate ma la fuga del gatto che è in me, non poteva non dirlo. Bene, e quindi a questo punto siamo quasi in chiusura e finiamo in bellezza con le criptomonete, perché no? Perché stanno arrivando anche loro a una crisi. ne hanno vissute tante. Ma ora dai che gli si dà una spallata? No. Non si sa. Chissà. Allora, potrebbe essere la volta buona. Anche lì ci sono sempre i lupi, cioè, che dicono: ma è buono se se ne va tutta sta fuffa, perché così ti lasciamo le cose, cioè reggono solo i forti e sono le cose di vero valore. Cioè, che il mercato delle criptovalute, della finanza distribuita, queste cose qua, del web 3 basato sulla blockchain, fosse una cagata, più o meno aleggia. Cioè, come ci sono i super sostenitori, ormai siamo veramente a un livello di setta religiosa quasi. C'è nel film, non so se l'avete visto, Clerks 3. Sì. Inizia con i due tipi della setta cripto cristiana con la maglietta. Che... In effetti si rende l'idea, sì, è molto... Sì. Ma ci sono altri omaggi, comunque, ne so altri. Tipo c'è una puntata dei Simpson dove, non mi ricordo più perché, cosa dovevano fare, comunque c'è Cartman che cerca di convincere i propri amici praticamente usando le parole di uno spot pubblicitario in cui Matt Damon aveva detto alla gente, consigliato di investire in Bitcoin dicendo siate coraggiosi. Molto bello, cioè, molto diciamo bello. Che il mondo se n'era accorto. Sì, però... c'è anche la scena molto bella del film, quello... No, è l'ultima questa, prometto, anche perché non mi ricordo il titolo di questo film. È quella della fine del mondo che arriva dall'alto, lo scontro, quello che... Dai, che c'è una specie di novello Elon Musk che tenta di fare saltare un meteorite che ci sta colpendo per poter prendere le materie prime che ci sono sopra, ma la cosa non riesce, quindi alla fine il mondo finisce. Sì, quello con Leonardo DiCaprio. Quello di non guardare in alto, come cazzo Don't look up. Don't look up. Quello esatto. Di Leonardo DiCaprio. Quello, cioè, quando parte il riot nel bar... Non so se ve lo ricordate, c'è un omino che fuori dal bar, mentre scappano tutti, che c'è il casino, tutto prende fuoco. Investi tutto in Bitcoin. No, grida, le criptomonete non servono a un cazzo. Grande. L'ho notato solo io, probabilmente. Sono anche tornato indietro per essere sicuro che lo dicesse, lo dice. E non lo dice. No, lo dice. Dice, le criptomonete non servono a un cazzo. Ok. No, dai, ok. No, dici, finisci. Cioè, finisci. Comunque, in questo mondo, ci sono dei critici della cosa, però... Diciamo ci sono anche i sostenitori. Attualmente la congiuntura economica ha favorito il crollo verticale di tutte queste, delle due principali monete, che sono quelle che contano, che sono quelle più capitalizzate, nel senso che la gente ci ha buttato i soldi, e sono Bitcoin e Ethereum, che ora si sono distinti anche per due diversi approcci alla gestione della blockchain, che però non sono valsi ad Ethereum la capacità di ritornare su. Nel senso che sta andando molto lenta questa cosa, però il settore di questo tipo ha avuto nell'ultimo anno, cioè, una curva in discesa, ma tipo un tracollo, nel senso che tipo Bitcoin ha perso, dai disegnetti che si vedono qua del grafico, cioè ero vicino a $70,000, ora mi avvicino, sono sotto i 20,000. Mm-hmm. Cioè, sì. Cioè, è una perdita del 60%, 65%, 70%, è tanto. Cioè, ora non ho fatto i conti precisi, però se guardo il grafichetto è tutto un vado giù, vado giù, vado giù. Ethereum più o meno uguale. Ethereum sta anche patendo un altro settore fortissimamente in crisi, questo è molto bello, che è quello degli NFT, nel senso che loro... E vai! Era la moneta, cioè l'ETH era la moneta scambiata per... di smart contract, no? Quindi per comprarsi questi NFT, eccetera, che si sono dimostrati tendenzialmente un disperato tentativo di legare la criptomoneta a qualcosa che permettesse di comprare delle cose e non semplicemente di fare un investimento come fosse oro e argento. Cioè, attualmente la criptovaluta è utilizzata in questo modo qua, come un investimento molto volatile in cui te puoi guadagnare dal fatto che il valore cresce e diminuisce velocissimamente. Ormai si parla di ore, cioè, nel senso che tu per guadagnarci devi stare lì davanti tutto il giorno e dire oggi, che ne so, mi sembra che stia salendo, è aumentata di $8, è il momento di vendere, perché i miei guadagni sono su quella cosa lì adesso, cioè non fa più come e ritorno su di botto. E il tentativo è stato quello di creare qualcosa che ci si potesse vendere e comprare con queste cose, però nella realtà le cripto, per quanto ci sono degli esperimenti che sembrano più volti ad attrarre GIC che non a creare economia reale su queste cose, tipo Londra ha legalizzato il fatto che a Londra puoi pagare le cose con le criptomonete, tanto chi cazzo te le compra le cose con le criptomonete? Ah, dici non, tanto si può, almeno sono contenti tutti. È una moneta un po' strana, perché tu per comprare qualcosa con le criptomonete dovresti sostanzialmente bloccarne il valore, no? Cioè quello che può avere senso è, se voglio, ad esempio lo usavano parecchio in Sud America, l'Uruguay, il presidente dell'Uruguay si è fatto le foto con gli occhi rossi, nella foto corretti, che sono uno di quei simboli, per quello che ho detto sembra una setta, cioè i fanatici delle criptomonete per distinguersi tra di loro pubblicano queste loro foto con gli occhietti rifatti, come quando ti fai la foto con il flash e ti vengono gli occhi rossi. Perché? Ed è un modo, è perché esiste QAnon, non lo so perché, cioè so così, perché cioè, hanno questi, è come il saluto della massoneria, è come i motociclisti quando si incrociano che si fanno il saluto dei motociclisti, che io non lo so, ma hanno i saluti segreti, no? Cioè questo mondo per gelosone anche mi piacerebbe. E questo mondo per riconoscersi, cioè questo modo per riconoscersi. In Uruguay, ad esempio, vanno forte queste cose, ma perché? Perché la gente che è immigrata usava, per rimandare i soldi di là, il cambio con le cripto. Perché? Perché non paghi le commissioni. E quindi c'erano delle specie di specializzati in questo lavoro che ti facevano, tu mi dai quello che vuoi, io lo mando di là in cripto, nell'equivalente, e guadagno, cioè io ti garantisco che arriva quello che mi hai dato. Quello che guadagno io è scommettendo sul fatto che io poi me li posso tenere e li ritiro quando valgono un po' di più. Quindi non ti faccio pagare commissioni nel cambio, perché io guadagno dal fatto che me li tengo lì e so che li ho comprati a X, aspetto che valgano anche solo 5 dollari in più, però devi avere capitale per fare questa cosa qui, no? Certo. Comunque, vabbè, questo è un altro come discorso, sempre, no? Che analizzeremo un giorno. Però adesso diciamo che quello che hanno provato a lanciare era questo mercato degli NFT, che era principalmente legato all'arte. Il problema è che si è rivelata una cagata mostruosa. Ma dai! Sì, incredibile, vero? Ah. E quindi una delle cose che stanno perdendo di più sono quei progetti che hanno dovuto licenziare tipo metà del personale praticamente, tipo OpenSea, che era una piattaforma fatta per la vendita degli NFT, che hanno provato a rivenderseli, no, questa roba. Il problema è che poi c'erano tutte queste figurine che alcune valevano un sacco di soldi perché l'aveva fatta Tizio Caio Sempronio. Il problema è che perdevano valore velocissimamente, quindi magari c'era un fesso che se le comprava a un sacco di soldi, dopo 3 settimane non valeva più un cazzo. Era facilissimo incorrere in truffe, e sostanzialmente le cose che funzionano sono quelle del mercato dell'arte tradizionale. Non vorrei, cioè, dire, se tu sei nei giri giusti, capito, Duchamp espone lì a Parigi, c'è il cesso, no? Cioè quella roba che era bellissimo, surrealista, però cazzo, hai preso un cesso e l'hai messo lì. Cioè ti sei giocato un po' il fatto che sei Duchamp, no? Ecco, però con lui funzionava perché c'era tutta quella cosa lì. C'era un geist dell'epoca. Esatto. Cioè, la stessa cosa la puoi fare anche ora, no? Sono un artista affermatissimo, cioè posso fare un NFT e venderlo, ma pure se facevo... capito, pigliavo la mano e la intingevo nel miele, poi la spiaccicavo sul foglio, potevo rivenderla. Genio. Lo so. Un modo buffo per dire grazie al cazzo. E comunque... E quindi l'effetto era stato un po' quello, no? Ed era fuffa all'ennesima potenza, e quindi non li ha aiutati a salire questa cosa, ma li ha aiutati a scendere. Una cosa ancora più interessante è che un exchange di criptovalute, cioè esatto, di quelli FTX, che scambia... Praticamente è l'aggancio all'economia reale, cioè la gente compra le criptovalute per andare da un exchange e dirgli ok, è salita, ridammi i soldi veri che almeno ci faccio qualcosa. E Coinbase ha dovuto licenziare tra il 20% e un terzo dei suoi dipendenti. Ora non so se era il 20% o un terzo, però comunque ha licenziato un sacco di gente. Perché ad esempio, sempre in questi giorni, sempre nel giro delle cripto, il FTX, che almeno come diciamo che è una piattaforma... Questo è Coinbase, FTX è un altro. Sì, sì, no, esatto, però FTX è fallita completamente in questi giorni. Poi, no. E vogliamo parlare allora di... No, aspetta. No, il senso era proprio che comunque sia... cioè sta completamente fallendo la piattaforma dove le varie criptomonete vengono scambiate tra di loro. Cioè in un certo senso sta venendo giù completamente la piazza dove giocano con queste criptomonete. Anche. Giusto, basta. Cioè hanno giocato abbastanza. No, vabbè, però insomma è una cosa che è tipo successa... Sì, ma è successa tipo ieri l'altro questa, quindi è un, cioè, sta continuando a succedere. Comunque c'era una criptomoneta di quelle stablecoin, Terra USD, che ha perso il 100% del valore. Cioè, ha chiuso baracche e burattini. No, come ad esempio questa qua. È forte. No, questa però era una cripto. Mi sa che quello che dici te era soltanto... No, loro facevano solo exchange. Esatto. Ma gli exchange in realtà perdono abbastanza velocemente, perché tu per fare exchange cosa fai? Ti servono i liquidi. Perché l'exchange... prende cripto e ti dà i soldi, piglia i soldi e ti dà le cripto. Se tutti vogliono le cripto, io vorrò tanti soldi, ma se tutti mi chiedono indietro i soldi, io da un cazzo gli piglio i soldi. E quindi che un exchange fallisca È più aspettabile, in un certo senso. Esatto, e c'è anche il grosso problema di, sì, tu hai le cripto, ma se non trovi più nessun exchange che te le cambia? Certo, certo. E quindi, però questo mercato è uno di quelli che è nel ramo del big tech, che era quello innovativo, no? L'età, il web 3.0, la blockchain e tutte queste cose qua, in realtà per il momento sembra che... Ma cioè, è la parte della voce, cioè, la parte che ad esempio di queste aziende, di tutto questo mondo in verità, almeno a me risulta sempre più oscura e incomprensibile, chi ci lavora, quanto ci lavora, quante persone, cioè, ora non è che lo sto chiedendo a te, però in generale... In termini numerici non lo so, perché capisci, una delle cose che sono molto strane di questo mondo, che sembra il mondo di una non lo so, è cioè come se c'è un aspetto professionale, intendevo, cioè dietro molto solido, cioè la gente ci fa dei soldi, però è tutto a livello di startup è presa bene, cioè tu devi creare entusiasmo, cioè se te guardi chi tenta di parlare di questo mondo è abbastanza interessante. Se volete fare questo esperimento, voi andate a cercare su YouTube quegli youtuber che vi parlano di criptomonete. Loro iniziano di solito sempre con: io non sono un analista finanziario, perché per fare analista finanziario devi avere il patentino, se no mi sei un truffatore. E poi, quando dopo aver fatto questa premessa, iniziano a parlare di criptomonete. Le criptomonete sono in questa ottica strana, per cui sembrano collezionisti dei francobolli. E quindi loro possono parlare. Il lessico che usano, cioè proprio tutto preciso, eccetera, no? È quello degli analisti finanziari. Quindi lui inizia a dirti che non è un analista finanziario e poi ti parla di un mondo che sembra correre parallelo alla finanza, ma tutto più semplice, perché lì devi solo comprare e vendere. Cioè tu compri la cripto perché vale X sperando che valga tot, tu compri certi NFT che valgono X sperando che poi tra un po' valgano tot. Cioè è tutto un meccanismo così di cose che però, cioè mentre, che ne so, io prendo, compro in borsa, posso fare dell'analisi tipo: c'è poco grano quest'anno, quindi, che ne so, il grano in Olanda costerà di più, e allora posso decidere di investire per quelle materie prime. Un po' lo puoi fare questo discorso, no? Cioè è ancora una qualcosa che ha del rapporto con la realtà. Quantificabile, sì. Cioè puoi dire indovina uguale, cioè, sì, perché no, comunque ci sono le bolle, c'è tutto, però cioè, invece le cripto fanno le stesse analisi utilizzando gli stessi metodi matematici, eccetera, no? Che ne so, ne usavano uno l'altro giorno che mi piaceva un sacco, che era questa curva di Bernoulli, sì, quella della resistenza, cioè un valore che praticamente ha una sua resistenza, un certo valore che quando poi inizia a salire. E questo loro la usano perché si usa effettivamente in analisi finanziaria per capire: un'azione sta salendo, a un certo punto si fermerà prima di prendere il trampolino e risalire ancora. Allora io devo capire qual è il valore di resistenza. Sì, sì, a scaglioni. Sì, una roba del genere, che nel mondo reale già mi sembra una di quelle cose tipo, non lo so, una roba magica a me. Il pendolino, sì. Cioè sì, mi sembra veramente, ma solo perché c'è una curva che descrive questa cosa veramente... Cioè, però, cioè, a posteriori magari la possiamo fare l'analisi, però siccome hanno fatto vedere che spesso a posteriori funzionava, però sulle cripto... Cioè tutto questo, ma che senso c'ha? È del tutto, cioè, aleatorio. Sì, le cripto non sono legate a niente, sono legate solo a se un giornalista ne parla bene o male, se la gente ci butta dei soldi o no. Cioè è tutto un mondo in cui non puoi dire no, perché io ho visto che la curva adesso è... Cioè, no, però appunto il senso... Ma non è determinato da niente quella cosa. Sì, con tra l'altro, però la cosa che mi sembra più tragica di tutto quel mondo là è che se uno vuole, cioè, quantomeno riesce a identificare un nemico chiaro, uno, anche semplicemente un qualcuno a cui dare la colpa, se uno vuole, o da odiare puramente, come un'azienda, come Twitter, come Musk, come quello, come quell'altro. Nel mondo delle cripto sembra invece, appunto, era per questo che chiedevo, o che mi domando, insomma, quanto effettivamente ci lavorino queste persone, perché mi sembra che lo youtuber comunque sia sarà uno che fondamentalmente per i cazzi suoi si prende la telecamera, si fa il video e prova a farlo, oppure no, non lo so, non ho idea, cioè non capisco quanto sia strutturato quell'aspetto di... No, è poco strutturato, per quello ti dicevo che sembra un po' l'armata Brancaleone, no? Cioè sembra per dire, qual è l'unico modo per cui io posso far funzionare quella curva come mi aspetterei? E se... è come se io, noi ci mettiamo d'accordo su un segnale per cui andiamo a dar da mangiare al gatto, capito? Sì, sì, sì. E poi quando scatta quel segnale noi andiamo a dar da mangiare al gatto. Cioè fino a che noi ci crediamo in questa cosa, il gatto magna. E quindi è come se noi analizziamo quella curva, convinciamoci che quando è arrivata lì è il valore di... e poi sale. E quindi cosa facciamo? Comperiamo perché sale. È certo che sale poi. È certo, cioè l'unico modo per far avverare questa cosa è una profezia che si autoavvera e quindi la dobbiamo dire a tutti. E quindi anche lo youtuber, io diffido, perché io che cazzo ne so che lui non c'ha l'amico, capito, che certo, è entrato nel progetto X d'NFT eccetera, allora ti dice "Oh, guarda che io l'ho analizzata questa, secondo me va forte", perché poi sembrano, quando te lo vendono, sembrano quelli che giocano i sistemi per il lotto, no? "Oh, ma io ho vinto, ho fatto due anni e tre terni secchi". Tra l'altro, appunto, no, tra l'altro guarda che ad esempio un'altra un aspetto molto da verificare, però che mi è sembrato piuttosto comune tra le persone che trafficano, hanno trafficato e poi hanno inesorabilmente quasi tutte perso i loro soldi giocando con le cripto, è stato che comunque c'è sempre un guru semilocale, cioè c'è una persona che è l'amico dell'amico, cioè una persona a due gradi di separazione, diciamo, nell'arco di due o tre, che è quello che ne sa e che ha un giro... sì, però lì è proprio, no, lì più che altro è Herbalife, cioè piramidismo aziendale. No, o il gioco delle tre carte. Sì, cioè, è però... simile a tutte le truffe, guardate. Esatto, sì. Cioè, però... anche nella edicola, nel tabaccaio sotto casa sono stati vinti X soldi all'otto, allora... Sì, sì, esatto, sì, sì, sì, sì, sì. No, però ecco, insomma... Io ora sto sempre cercando, mi viene sempre da ripensare su chi ci lavora, quanto ci lavora e in che dinamiche lavora, cioè dubito che comunque sia queste persone che fanno influenza verso questa cinquantina, centinaia di persone possano avere un guadagno diretto da convincere queste cento intorno a loro a farlo, quindi probabilmente magari che è stata pompata un casino, cioè, vabbè, uno dà degli elementi finanziari. Cioè che interesse ha, capito? Io che magari non ho alcuna idea di come si facciano investimenti, ma che interesse ho, mi viene sempre a pensare un po' alla poker in un certo senso, cioè che interesse ho a dirti comunque sia la scelta vincente te accanto, cioè che non capisco qual è il moto di queste persone che dicono, che fanno da guru, capito? Beh, perché magari se ci vuoi investire perché o c'hai investito, no, esattamente, come quello che era Herbalife, io devo dimostrarmi molto convinto per far carriera in quella ok sì, capito? Sì, cioè è proprio una roba della presa bene e della fedeltà alla no ok, questa qui era la sensazione all'idea. E mi torna anche di più alla sì, causa sì. Cioè quelli che hanno i soldi, che hanno potuto fare questo giochino, sono... Ad esempio, no, tu prendi Bitcoin, attualmente tutti il 90% delle transazioni sono confermate da soli 50 miner, che funzionano sostanzialmente da banche. Sì, sì, sono un monopolio. Perché sono loro che, certo, quando uno vuole comprare qualcosa o scambiare qualcosa in Bitcoin, riescono a vincere il challenge che gli permette di fare, cioè il meccanismo del mining, no? E quindi vuol dire queste persone qua, per fare questa cosa, si saranno consorziate e avranno X web farm in giro, cioè web farm, X farm in giro per minare Bitcoin, perché ormai è molto difficile, quindi bisogna consorziarsi, no? Cioè, questi chiaramente hanno un guadagno, ma hanno un guadagno fino a quando i Bitcoin gli consentono di fare pari. Cioè, attualmente se tu vinci il challenge e confermi la transazione, più di 6,5 bitcoin, che un anno fa erano 70.000 dollari per 6,5, adesso sono 16.000 dollari per 6,5. E la corrente costa, le risorse costano, eccetera, eccetera. No, chiaro. Capito? Cioè, le persone che fanno veramente business di questa cosa sono queste. Oppure quelli che trafficano in finanza. Per cui però le cripto sono solo un altro pacchetto finanziario, sono solo un altro asset. Io difficilmente investo solo in cripto. Certo. Capito? Magari io quello è quello con la leva di guadagno, quella folle, che che mi può andare male, ma io investirò anche nel mercato normale e nella vita faccio quello, cioè posso anche decidere investo in oro e in argento e mi tutelo dalla perdita delle cripto, perché quello è un investimento più sicuro, cioè ti fai tutti questi giochi qua, quindi è un mondo molto finanziario. Tu dici ma e poi alla fine non c'è niente di pratico? Ultimamente secondo me è poco. Perché gli NFT di nuovo cosa hanno portato? Il mondo dell'arte. Ma no, certo. Cioè, capito che è di nuovo siamo tornati, siamo dei collezionisti di francobolli. Però ad esempio la differenza sostanziale è che l'NFT, almeno che mi sembra a me, è che l'NFT ha un'accettazione mainstream completamente diversa dalla criptomoneta. Cioè esistono già delle aziende del tutto regolari, probabilmente anche a 20 metri da casa mia, che ci trafficano, che ci provano, che hanno insomma aziende regolari. I concepibili da una mente rude come la mia, probabilmente. Nelle cripto l'aspetto del proprio, cioè mi sembra tragica la prospettiva. Beh, guarda, di una persona singola, capito, che appunto rischia tutto su questa roba, e dall'altra è palese che ha un'influenza sul mondo del lavoro, però è in un certo senso indiretta, no? Ecco, ma secondo me è minima, cioè, non a caso, tipo. In Italia la piattaforma che è uscita di più è una roba nata dal Politecnico di Torino che si chiama Young Platform, che faceva anche i video con Muciaccia, quello di Muciaccia, quello dei... Dai, la trasmissione per bambini... Art Attack. Faceva Crypto Attack, per spiegare le criptomonete. Tra l'altro sembrava una roba allucinante, perché sembrava veramente circonvenzione di minore. Cioè, nel senso che tu chiami una cosa che si chiama Young Platform e gli proponi di investire, gli spieghi, capito, con quello che faceva le robe per i 12 anni, come si investe in criptovalute. Cioè, quindi era una... Cioè, ma non puoi investire in criptovalute, non c'hai neanche 18 anni. Vabbè, ma la paghetta, che ti dà la mamma... Vabbè. Ora questi ci sono consorziati con un'altra azienda che invece è di qua, tipo Centro Italia, non mi ricordo, che invece sta lavorando sugli NFT e fanno tutte quelle cose tipo gli NFT, cioè quando si vogliono rileccare fanno quello per beneficenza, tipo facciamo le foto, le vendiamo con NFT e ci paghiamo il pozzo, i bambini in Africa, sì, esatto, le robe così, e poi trafficano normalmente con il mondo degli NFT. Questo in Italia ha avuto un certo risalto sui giornali, minimo, quelli specializzati finanziari, diciamo, come progetto. Però in Italia secondo me non stiamo parlando di molte persone. Però tieni conto che i licenziamenti di Meta in Italia hanno toccato 22 dipendenti del milanese. Vabbè, certo. Quindi è che questo tipo di economia non è nostro. Cioè non è una roba... su cui c'è molto in Italia. In Italia ci sono delle grosse truffe, però c'era tipo un tipo di Firenze che aveva fatto un bel un ciocco tremendo con le criptomonete, dicendo poi mi hanno rubato le criptomonete, non si capisce se lui le aveva scambiate, perché ai tipi di investitori suoi non è tornato un cazzo, no? Perché lui voleva fare tipo l'exchange, c'aveva tutti questi soldi, poi a un certo punto gli ho detto me li hanno rubati gli hacker e non so come sia finita, se poi li avevano rubati davvero o se semplicemente sarà perso il backup. Si è cambiato i soldi e se li è messi via, capito? Sì, no, ma infatti, voilà, chiaro che il licenziamento di Twitter o di Facebook o di Meta, insomma, quello che è da noi ha un effetto relativo. Però appunto, anzi, su questa cosa delle cripto, proprio perché sono un pochino più mobili e oscure, arrivano molto di più a delle persone normalissime vicine a noi, ecco, hanno le grosse perdite, hanno determinato licenziamenti anche lì, cioè il succo di tutta questa cosa non era per parlare 3 ore delle cripto, no, esatto. Scusate, tirando un po' le fila, perché stiamo sprolochiando da un'ora e mezzo, ma quindi se prima parlavamo riguardo ai licenziamenti, diciamo la crisi che tra molte virgolette di Meta e di Twitter era un qualcosa che abbiamo in qualche modo raccontato come diversa da quella che viene chiamata bolla, mentre invece nelle criptovalute si potrebbe parlare in qualche modo di qualcosa di più simile a quella che viene chiamata, secondo me, che chiamiamo bolla. Cioè io la identifico abbastanza con una bolla che si sta candidando ad esplodere, cioè che già è esplosa da un po', se uno lo voleva vedere. Bene, e glielo auguriamo di cuore. Sì. Tra l'altro, buttata lì, c'è anche la nostra puntata Lovelace, che parla un po' più approfonditamente degli NFT, una delle prime puntate che abbiamo fatto di Lovelace, quindi insomma, se vi va di andarvela a riascoltare, la trovate sempre appunto su radiowombat.net. Sì, quando c'è da parlare male di qualcuno, noi subito. Ora proprio banchetto di avvoltoi. Sì. Molto bene, speriamo di continuare con queste splendide notizie anche tra 2 settimane, perché Lovelace ritornerà tra 15 giorni, perché vi ricordiamo Lovelace va in onda ormai da un po' il lunedì, un lunedì su 2 alle 21, più o meno intorno alle 21, e va in replica, non mi ricordo assolutamente quando, ma potete trovare queste preziose informazioni sul sito sempre di Radio Wombat, radiowombat.net. Nel palinsesto trovate sia l'orario della diretta, se ve lo siete dimenticate, oppure quello delle repliche. Altrimenti, se proprio siete persone pigre, potete ascoltarci tramite il podcast negli orari e nei giorni che più vi piacciono. Non lo so. Dopo pranzo a me piacerebbe molto che ci ascolti. Dopo pranzo, quando siete un po' rilassati. A me anche quando. A me invece quando cucinate. Ok, già, ok, anche prima. Anche prima. No. Te quando ti piacerebbe? Quando vi pare. Non hai preferenze? No, non so rispondere. Vabbè. Niente, e su questo dilemma vi lasciamo, direi, se non avete altro da aggiungere. Usate la monetina. Quale monetina? Ah, la moneta, non la Bitcoin. E ora il momento giusto per ascoltare Lovelace, lanci la moneta. Ah. Testa sì, croce no. Ma la moneta non virtuale. No, quella fisica, con quella non serve a un cazzo. Deve neanche tintinnare, va bene. Sì. Bene, e vi lasciamo però con Speranza Spalding, così giusto per chiudere un po' in bellezza, con I Know You Know, e quindi vi diamo appuntamento a tra 2 lunedì. Ciao ciao! Ciao! Ciao! Nothing will take me away. You already know, but sing it again. I love you, baby. Nothing. cosa te amo.